Eccoci qua, benvenuti e bentornati All Time Rock and Roll, settima puntata. Anche oggi ne manca un pezzo. Sì, già. Oggi ne manca un... Ho avuto un problema dentistico. Dentiale. Manca Mirko, che purtroppo è a casa dolorante. Quindi siamo io, il nanno, come sempre. Dove io ce l'ha questo accesso? Adesso lo... E Luke, se vuol salutare, se... Ciao, ah, ciao. Okay. C'è ma anche lui. Gli ha giocato le uova. Non mi sei Bindo? Sì. Ah, no, scusate, mi ero preso. Da chi è ripreso, scusa? Chi t'ha preso? Precisiamo che chiaramente, visto che manca Mirko, in arte il Masa, quindi un tecnico, il Bindo oggi è solo da solo. Dunque, quindi quest'oggi vediamo un po' la cosa sarà come si comporta. Pessima. Pessima. Toccato. Partiamo subito con i compleanni. Sì, tantissimi compleanni. Una di quelle puntate dove ci sono più compleanni che canzoni della storia del rock o citazioni o quanti ce ne sono? Sì, uno, cinque, due, cinque. Tre, quattro, cinque. Cinque, oggi cinque. Iniziamo subito con un italiano, con Davide Luca Civaschi, in arte Cesareo, nato a Milano il 22 gennaio del 1962. È un chitarrista italiano, membro del gruppo, indovinate? Indovinate? Cosa? Di chi? Lo dico io, di Elio le Storie Tese. Ah. Strumentista di stimate capacità tecniche e compositive. Ha militato in diversi gruppi emergenti milanesi, tra cui di Urania, prima di diventare il chitarrista ufficiale appunto di Elio e le Storie Tese. Cesareo si distingue per un suo stile sobrio ed efficace, nonché per la sua poliedricità. Tutto ok, Bindo? Ok. Che bene si sposa con le caratteristiche del gruppo. I suoi assoli sono spesso leggeri e piacevoli, e i suoi riff avvincenti. Quindi, carissimo Davide, o meglio Cesareo, tantissimi auguri, e loro sono Elio e le Storie Tese. Tutti mi scherzavano per le dimensioni del mio pene, ed io non stavo bene, soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone. perché il pene mi dà il pane. Son diventato un grande attore e benché schiavo dell'amore, mi son comprato una moto e ora sono schiavo della moto. Non faccio più moto, infatti vado solo in moto, ma ora sono diventato un mito, ho rilanciato il film muto, perché sono muto, e se vedrete il filmato sicuramente converrete con noi che questa è verità. Grazie, è finito. Io non c'ho una vita per il cinema, io non c'ho una vita per la moto, io non c'ho una vita per il cinema, io non c'ho una vita per la moto. 30 centimetri di dimensione artistica, su di ciò la critica concorde, nel ritenermi su di ciò, perché non hanno capito, non parlo perché son rapito. E poi in faccia non sono mai inquadrato, però dal pubblico sono venerato e ora sono diventato un mito, ho rilanciato il film muto perché sono muto, e se fossi stato cieco avrei lanciato il film cieco, e se fossi stato atto avrei lanciato il filmato. Dico che faccio film penosi perché lavoro col pene, e insomma il pene mi dà il pane, il pene mi dà sì la moto, ma la moto non dà pene perché funziona bene. Sì sì, la moto non dà pene perché funziona bene. Io non c'ho una vita per il cinema, io non c'ho una vita per la moto. Balla, balla, abbattersi, abbattersi. Elio e le storie tese. Alle tastiere Confotanica, al sassofono e alla voce Muffoglias, al basso Faso, alla chitarra Cesareo e alla batteria Avates. Siete stati veramente splendidi, siete un pubblico splendido. Purtroppo bisogna terminare qui perché c'è la forza pubblica e siamo già un quarto d'ora oltre l'orario e non è colpa nostra, ragazzi. Ed era Elio e le storie tese con la loro canzone John Holmes. Lui era un quarto d'ora oltre, noi invece cerchiamo di anticipare, visto che oggi abbiamo una scaletta molto molto ricca. Molto ricca. E continuiamo con il secondo compleanno di oggi, che è di Orianti Panagaris, chiare origini greche, nata ad Adelaide il 22 gennaio 1985. Perché Panagaris? Ma Panagaris può essere perché Nicolas Vaporidis è italiano. No, c'ha il babbo greco. Vabbè, ma vedi. Questa hai verificato? Sì, ho guardato. Non è vero. non ci credo. È una chitarrista australiana. Ecco, vedi? Allora no. Ho capito, allora ho detto no. Origini, ho detto. In precedenza ha suonato con la Grecia, c'è un bel pezzo. Oddio, sì, in effetti. Origini. In precedenza di geografia oggi. All'inizio della sua carriera ha suonato con Michael Jackson. Mentre attualmente è membro della band di Alice Cooper. E noi proprio con una canzone di Alice Cooper gli facciamo i nostri auguri e vi facciamo ascoltare Poison. Yeah. Ed era Alice Cooper con Poison. Veleno. Proprio quello. Esatto. Traduzione. Traduzione. Veleno. E continuiamo con il terzo compleanno di oggi. E... No, no, aspetta, correggo, perché Poison in francese vuol dire Poison. Pesce. Pesce? Pesce, sì. Ah, sì. Ma è scritto sì. Proprio così? Poison vuol dire pesce. No, non credo. Ah, ok. Se la pronuncia almeno no, però non credo. Però Poison. Terzo compleanno di oggi è di Dario Ciffo, nato a Milano il 22 gennaio del 76. È un cantautore, chitarrista e violinista italiano. Studia violino al Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi. Nel 97, dopo un incontro imprevisto con Manuel Agnelli, entra a far parte della formazione degli After Hours, come violinista per l'appunto, con i quali registra 5 dischi. Noi gli facciamo i nostri migliori auguri, auguri con Voglio una pelle splendida, After Hours. Stringimi magro, molto peccato, ma la vita è un suicidio, l'amore è un robo, e voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida. Senza un finale che faccia male, con cuori sporchi e le mani lavate, a salvarmi, vieni a salvarmi, salvami, bacio al colpevole, se dice la verità. I'm not afraid to die. che renda la pelle splendida. A salvarmi, vieni a salvarmi, salvami, bacio al colpevole, se dice la verità. Voglio una pelle splendida, come disse quella che andò dall'estetista e trovò chiuso. Praticamente questa è una canzone degli After Hours, la freddurina delle 19:12 e 16. E adesso no, devi guardare lì Patru, quello va avanti. Ah, scusa. E adesso continuiamo con un altro compleanno. Malcolm Robert Andrew McLaren, famosissimo, nato per costruttore di automobili di Formula 1. No, esatto. No, Boni, no. Stiamo scherzando, chiaramente. Padre, quello era Bruce. Nato a Londra il 22 gennaio del 46 e morto a Bellinzona 8 aprile del 2010. È stato un produttore discografico, musicista e cantante britannico, dunque non fondatore, come dite voi, della Ok. Manager dei New York Dolls nell'ultima parte di carriera. Però è stato, pensate un po', il creatore della punk band dei Sex Pistols. Ah, scusate, però se è poco. Ed era il cugino di Bruce McLaren. Cioè, God Save the Queen. Quindi Sex lui Pistols è entrato nei Sex Pistols e poi o prima ha diventato la Formula 1. Sì. Potential H-bomb. God save the queen. Ed erano i Sex Pistols con God Save the Queen. Sapete che questa canzone era stata bandita dalle radio inglesi? Per quale motivo? Perché non è che si esprima proprio in maniera abbastanza pacifica nei confronti della regina. Era un po' diciamo dissacrante. Questo mi sembra perché durante una gara di Formula 1, sì, la regina con McLaren sbandarono. Basta Formula 1, dai. Abbiamo capito che Michael Robert Andrew McLaren non è, cioè quel non c'entra McLaren. Niente. Non è quel McLaren. Uscì di strada e venne addosso a McLean. Te. Venne addosso a te, Patro. Bindo mi hai capito, su. Sì. E andiamo avanti con lui. No, mi dicevi, Luca, a te, Patro. Niente, che ti venisse addosso una McLaren. Insomma. Andiamo avanti con l'ultimo compleanno. Lui è Steven Adler, nato con il nome di Michael Coletti. Scusate, conosciuto anche come Steven Popcorn Adler. Ok, Popcorn l'ha aggiunta al Bindi? O... No, credo è. No, è no. È proprio come... Popcorn. Com'era? Sono stato io oggi. Pappapero. Pappapero, giusto. Settimana scorsa. Avevo pensato a un trallallero io oggi, però trallallero è. Contato. Insomma. Sorpresa la prossima volta. Stupiscimi. Nato a Cleveland il 22 gennaio del 1965. È un batterista statunitense e fu il primo vero batterista dei Guns N' Roses. Scusate se poco. A sostituzione del primissimo batterista Rob Gardner. Egli fu chiamato dal suo amico d'infanzia, uno così a caso, Nanno, tu che lo conosci bene, Slash. Esatto. E suonò per l'LP Like a Suicide e negli album Appetite of Destruction e GNR Lies. Quindi, carissimo Steven, tantissimi auguri. E loro sono i Guns N' Roses con Paradise City. Take me home. Patru, portami giù a Paradise City, dove l'erba verde e le ragazze sono carine. Ah, dice così? Sì. Ah, non lo sapevo. Patru, sei in una canzone dei Guns N' Roses. Erano i Guns N' Roses, sì. Con Paradise City. Sì, effettivamente sì, raga. Il mio passato è un po' burrascoso e ombroso, ma sì, sì. Un po' sì, di nebbia, sì. Qualche rovescio, mite, progresso, invece nel centro-nord. Mentre nel centro-sud ci saranno svariati nuvoli. Possiamo iniziare con la storia del 68? Muoviti! Oh. Vai! E vi parliamo dei Beatles. 1968, George Harrison leggeva Lai Ching e ne era così affascinato dal libro e dal suo concetto di base, giusto? Quel film che era il mostro. Ma li sai tutti? Sì, più o meno, non mi ricordo. In Oriente tutto è relativo al testo, mentre in Occidente tutto è coincidenza. Considerato da Confucio il libro della saggezza, George pensava che sarebbe stato bello mettere in pratica i suoi insegnamenti. Chiede un affitto, un tegolino. Ah, scusa, tetto. No, perché era un po' così, capito? Avete finito? Sì. Posso continuare? Ok. Così lontani da quelli che avevano condizionato la sua adolescenza. George era a casa dei suoi genitori e stava ripensando a quello che aveva imparato negli ultimi giorni. Pensava anche ad applicare l'I Ching all'arte di comporre le canzoni. Così prese un libro a caso dalla sua libreria e decise che avrebbe scritto una canzone sulle prime parole in cui si sarebbe imbattuto. Gently tuntien. Whips. Esatto. Verbo avere, però, di Tuntian. Sì, esatto. Che è Tuntian. Non erano la quelle tabellina, parole lì. La tabellina dei Le parole due. Che trovò furono gently sweeps. Ma che senza S? Whips. Whips. Ovvero piange dolcemente. Una prima stesura di While My Guitar Gently Whips fu scritta velocemente, ma George Harrison cambiò più volte il testo nel corso delle settimane successive. Quando pensò che fosse pronta, la sottopose al giudizio dei Beatles, ottenendo in cambio la risposta di sempre: disinteresse o poco più. Tipo. Una prima versione acustica con Harrison alla chitarra e McCartney all'organo fu registrata, ma subito accantonata. La si può ascoltare in The Beatles Anthology 3. Il cambio di passo avvenne quando Harrison portò con sé in studio il suo grande amico Eric Clapton. Grande amico prima che si innamorasse di sua moglie e gliela portasse via, tra le altre cose. Grande amico. Mr. Show Hand, mano lenta, non era molto felice perché giustamente ripeteva che nessuno... Ora ho capito perché lo chiamano mano lenta. Lenta, abbiamo finito? Lenta. Possiamo farla finita? Che avete stasera? Salutiamo Ciuccio Mazzei. Insomma, mister... Ciao, amico! Non riesco ad andare avanti. Insomma, Eric Clapton non era molto felice perché giustamente ripeteva che nessuno aveva mai suonato in un disco dei Beatles se non proprio gli stessi Beatles e che dunque il suo arrivo non sarebbe stato accettato da ovazioni. Ma alla fine accettò per fare questo piacere a George Harrison. Il suo ingresso calmò un po' le acque, segnando una tregua nelle molto turbolenti registrazioni del White Album. E quando Clapton mise mano a While My Guitar Gently Whips, anche Lennon e McCartney si convinsero che era davvero una grande canzone. Told you. E questi erano i Beatles. Salve. Why My Guitar Gently Sweeps. Buonasera. Lei è? Sera. Salve, sono il lattaio. Chi siete? Passavo di qui. Quanti siete? Uno. Dove andate? Da Ponte Pazzi. Un fiorino. Ma un furgone? Un daily? Perché fiorino ce l'avevo qui sotto per il latte. Ma... Bene, adesso vi leggerò un aneddoto tratto da... Jimi Hendrix, parliamo. E Dylan scrisse All Along the Watchtower dopo il famoso incidente in moto del 29 luglio 1966, quando riportò la frattura di una vertebra cervicale che lo costrinse per mesi in ospedale. Ricordiamo che sulla pagina Facebook troverete le lastre della... Certamente, firmate dal dottore originali. Dottor Washington. Con la ricetta. No, solo il dottore. Bravo, Dio, ti in allegato con la ricetta delle penne alla Bastiglia. Sì. E dopo un lungo periodo trascorso a leggere la Bibbia e ad approfondire le sacre scritture, in particolare il libro di Isaia, da quelle pagine, soprattutto dal capitolo 21, versetti 5-9, che Dylan ereditò le immagini della Watchtower, le torri di guardia. Punto. Ma te la versione scusate, no, sì, no. L'ho preso male. Allora la rifaccio. È da quelle pagine, soprattutto dal capitolo 21, versetti 5-9, che Dylan ereditò l'immagine delle Watchtower, le torri di guardia. Bravo, bravo. La versione originale del brano era molto semplice ed essenziale, con la chitarra a rispondere ai versi invece che ad accompagnare, compito svolto dal basso batteria, mentre l'armonica lascia l'aria e riempie i suoni. Jimi Hendrix trasformò All Along the Watchtower in un delirio psichedelico, sostituendo ovviamente l'armonica con la chitarra. Lo stravolgimento piacque così tanto a Dylan che, da allora, ha sempre eseguito la sua canzone nella versione di Hendrix. In pratica, chiudendo il cerchio, perché l'omaggio restituisce l'omaggio, ecco cosa significa prendere una canzone capolavoro e realizzare un altro capolavoro, trasformandola di fatto in una canzone del tutto nuova. All Along the Watchtower è stata riletta da molti grandi artisti: Hendrix, U2, Neil Young, Grateful Dead, Pearl Jam, Brian Ferry, Prince, John McKellamp, XTC, Paul Weller. Nel 2006, inoltre, gli australiani Wolf Mother, grandissimi, grandi, hanno scalato le classifiche con un brano del titolo Joker and the Thief, ispirato proprio ai due protagonisti della canzone. Metterei quella, guarda. E invece ci ascoltiamo Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Questo era Jimi Hendrix con la sua All Along the Watchtower. Adesso parliamo degli Steppenwolf, ovvero i lupi di steppa, tradotto da tedesco. Dal tedesco? Sì, Steppenwolf, Wolf, sono tedeschi. Ah, sono tedeschi. Sì. Der Steppenwolf, Wolf. Sarebbe lupo di steppa. Me lo ricordo perché bene, in una puntata vecchia. Insomma, giornale orario, sono le 19. Niente, oggi proprio non ce la facciamo. E tanto siamo in ritardo. Come hai detto prima di dei film di Benigni? In Chuan, no, come era? Tuntien. Tuntien. Nonostante siamo in ritardo, continuiamo a ritardare noi stessi. A fare ancora più ritardo. Potrebbe essere la perché puntata siamo dei ritardati. Magic Carpet Ride è una canzone rock scritta dagli Steppenwolf. Il brano è stato inizialmente rilasciato nel 1968 per l'album The Second. È stato il primo singolo estratto da questo album e nella classifica statunitense riuscì ad arrivare fino alla posizione numero 3, diventando così la seconda più grande hit parade della band, superata solo logicamente da Born to be Wild. Una piccola curiosità, nel brano il testo, che dice "Mi piace sognare proprio tra la mia macchina sonora", è ispirato ad un hi-fi stereo a casa di John Kay, acquistato con le royalties del suo primo album. Ed erano gli Steppenwolf con Magic Carpet Ride. È staccato proprio mentre mi schiarivo la gola. Proprio bello. Mm-mm. Vissuto. Proprio... Il Bindi si scaccola. No, non è vero. Non è vero, non è vero. È Valerio. Ora sì. E andiamo avanti con Build Me Up Better Cup. È il nome di una canzone scritta e pubblicata dai The Foundation con Colin Young come voce solista. Questo è stato il terzo colpo importante per la band. Colin Young ha sostituito Clem Curtis nel 1968 e questo è stato il primo album per le fondazioni per cui cantava. Ha raggiunto il numero 2 nelle classifiche del Regno Unito e il numero 3 negli Stati Uniti nella Billboard Hot 100 nel febbraio del 1968. Ha segnato punti. No, quella è un'altra cosa. Ah, è un'altra cosa. Punti. Dove è rimasto per 11 settimane. Nel 2003 Colin Young ha registrato una versione aggiornata della canzone sostenuta da un coro di poliziotti della polizia di Surrey. Il ricavato della vendita del CD va alla Fondazione Millie. Il fondo è un trust istituto in memoria dell'assassinio a scuola della ragazza Amanda Dauer e a quanto pare questa era proprio la canzone preferita dalla ragazza. Quindi i Foundation con Build Me Up Better Cup. Molto allegra questa Build Me Up Buttercup dei Foundation. E adesso continuiamo. Ma perché con... c'è la sigla? Se è finito? No, non perché è finito, il tecnico. Non è finito il programma. Perché il tecnico si distrae. Come diceva Rocky, non è finita finché non è finita. Prego, rifammela. Possiamo fare questo clima. E andiamo avanti con Piece of My Heart, che è un brano musicale scritto da Jerry Ragovi e Bert Brands e pubblicato come singolo da Irma Franklin, sorella di Aretha, nel 1967. La canzone ottenne uno straordinario successo l'anno successivo quando Janis Joplin realizzò una fortunata cover in versione rock, grazie alla quale l'album Keeps Thrills, nel quale la canzone era contenuta, occupò per alcune settimane il primo posto nella classifica americana degli album più venduti dell'anno. Nel 2004 la versione di Janis Joplin venne classificata al 344esimo posto nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi redatta dalla rivista Rolling Stones. Che non è male, che non è per niente male. No. Piece of My Heart, Janis Joplin. Janis possibly can. Honey, you know I did. And each time I tell my era Janis Joplin con Piece of My Heart. Ed era l'ultima canzone di oggi. Sì, sì, sì. Ultima canzone di questa settima puntata di All Time Rock and Roll. Ma non eravamo in ritardo. No, sì, guarda, siamo te lo dico io, guarda, 1:15. Siamo vai. Noi stessi adesso. 1:15 per ricordare gli appuntamenti di Radio F e chiaramente la nostra pagina. Vai, Pato, ovviamente prego. La nostra pagina Facebook All Time Rock and Roll, dove dovete mettere e potete mettere mi piace, potete mandarci anche le vostre dediche, perché no? E poi il secondo appuntamento, che è il podcast di questa puntata, che Valerio metterà in quanto finalmente mi hanno ripristinato, esatto, la linea internet. Devi mettere due, tre, quattro con questo. Quattro. Quindi avete un bel po' da ascoltare se vi siete persi queste puntate, oppure se semplicemente ve le volete riascoltare. Ricordiamo che stasera alle 22 c'è Claudio con Sugar Knight. Yes, e domani Piazza Grande con Enz. Ah, beh, scusa, Piazza Salta. Grande. Buonanotte, ragazzi, scusatemi, sono fuso. Sai, noi geometri con le piazze. Ha ragione. Sì, loro geometri. Allora, stamattina al bar erano in tre, capito? Sì, è vero. Erano in tre. Uno fuori a fumare, uno faceva colazione, l'altro leggeva il giornale. Lo voglio fa anch'io il geometra. Ma chi erano? Tre, lui? Ora non mi insegno. Poi okay, dopo sì, ne è arrivato anche un altro, te dirò. Pensa a te. Ricordalo te l'appuntamento con quell'altro, quello di domani, che io non mi ricordo l'ora. Piazza Alta. Sì. Ho già detto te. Ah, ho già detto io, ok. Dalle 22 alle 23, Piazza Alta. altra grande trasmissione di livello della nostra sempre qui Radio su F. Radio F. Quindi ragazzi, ci risentiamo mercoledì prossimo, come sempre mercoledì, yes, dalle 7 alle 8. Bravo. Ciao. Buona. Ciao.